Capitolo secondo. I riti di introduzione. Ogni momento e ogni parola della celebrazione eucaristica racchiudono una grande importanza, a cominciare dall'antifona d'ingresso e dal segno della croce, con il quale il rito prosegue sino al saluto finale mediante il quale siamo invitati a comunicare ad altre creature la buona novella della salvezza. Sin dai primi secoli, il semplice fatto che i cristiani si ritrovassero insieme in uno stesso luogo a un'ora prefissata è stato un evento carico di significato. Assistiamo alla celebrazione convocati da Cristo nostro capo. È il sommo sacerdote della nuova alleanza. È lui stesso che presiede in modo invisibile ogni celebrazione eucaristica. Proprio per questo è logico che ci sforziamo di arrivare puntuali al santo sacrificio, anzi con qualche minuto di anticipo. Così sono solite fare le persone beneducate, soprattutto se una persona importante ha dato loro appuntamento, sia che si tratti di una riunione impegnativa, sia che si tratti di un incontro informale. Ora, quale persona è più importante di Cristo? Quale riunione è più sacra della Santa Messa? Di conseguenza, sempre che la cosa sia fattibile, curiamo la consuetudine di raccoglierci in preghiera prima della partecipazione all'Eucaristia. Talvolta circostanze professionali, familiari o altre analoghe saranno di ostacolo. Proprio allora, però, dovremo impegnarci maggiormente per farlo con spirito di sacrificio. Se invece ciò non è possibile, possiamo dedicare almeno alcuni minuti alla meditazione dei grandi misteri che stiamo per celebrare, ripetendo atti di fede, di speranza e di carità. Rileggiamo spesso le preghiere e il cerimoniale dell'ordinario della messa, perché a tutti noi spetta una partecipazione piena, consapevole e attiva al santo rito celebrato sull'altare, ciascuno secondo il suo modo specifico. Il sacerdote, rappresentante di Cristo capo, agisce in suo nome e persona, cercando il meglio possibile di identificarsi con il sommo sacerdote. I laici, in virtù del sacerdozio regale ricevuto nel battesimo, si sforzano di unirsi interiormente al Redentore e di offrirsi con lui e in lui grazie alla mediazione del sacerdote. Nel quadro di una concezione davvero cristiana, risulta evidente che la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa non può limitarsi a gesti o atteggiamenti meramente esteriori. Nell'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, il Romano Pontefice scrive: «Certamente il rinnovamento attuato in questi anni ha favorito notevoli progressi nella direzione auspicata dai padri conciliari. Tuttavia, non dobbiamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche incomprensione, precisamente circa il senso di questa partecipazione. Conviene pertanto mettere in chiaro che con tale parola non si intende fare riferimento ad una semplice attività esterna durante la celebrazione. In realtà, l'attiva partecipazione auspicata dal Concilio deve essere compresa in termini più sostanziali, a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In altre parole, partecipare attivamente alla Santa Messa non vuol dire limitarsi necessariamente al compimento di azioni esterne. Vuol dire invece principalmente assumere un atteggiamento interiore che nasce dalla fede e dall'amorosa considerazione di quanto accade nel mistero eucaristico. Assistiamo alla messa, pertanto, curando la lettura dei testi e ascoltandoli con sincera devozione e attenzione. Respingiamo la fretta o la precipitazione. Fissiamo bene il pensiero su ciò che viene detto o compiuto. Sforziamoci di applicare alla nostra vita ordinaria le parole e le azioni liturgiche. La liturgia ci presenta un vastissimo campo di miglioramento spirituale ogni volta che celebriamo o assistiamo alla Santa Messa. Se desideriamo che la nostra giornata prolunghi la celebrazione alla quale abbiamo partecipato, è indispensabile vivere ciascun momento della messa affinché la croce di Cristo e la sua oblazione redentrice formino e fecondino la nostra giornata. In fin dei conti, senza modificare in nulla il nostro orario, il nostro lavoro, la nostra vita familiare, il nostro riposo, dobbiamo corrispondere alla misericordia di Dio, ricordandoci costantemente del Maestro, il quale ha immolato la sua vita per ciascuno di noi sul Golgota. Quello stesso sacrificio si fa di nuovo sacramentalmente presente in ogni celebrazione eucaristica. Tale condotta non implica traccia alcuna di utilitarismo, ma semplicemente il nostro divenire consapevoli dell'unione con Cristo lungo tutta la nostra esistenza. Canto o antifona d'ingresso e atto penitenziale. Se osserviamo bene i gesti liturgici che si svolgono sotto i nostri occhi, ci renderemo conto che già i riti di introduzione muovono a una risposta personalissima da parte nostra. Pensiamo, per esempio, al significato dell'atto di alzarsi in piedi quando il sacerdote si avvia verso l'altare. Questo alzarsi non è solo un gesto di cortesia, di buona educazione, simboleggia un atteggiamento più profondo del cristiano, il quale si alza per ricevere Cristo che viene. Da buon discepolo, il cristiano si dimostra disposto a seguire il Maestro in tutti i luoghi dove lui si troverà e in concreto ogni giorno per tutti i sentieri lungo i quali la provvidenza divina deciderà di condurlo. San José María consigliava di unire tutte le nostre azioni alla Santa Messa. Certamente, con la grazia di Dio, possiamo riuscirci. Il canto o l'antifona d'ingresso mette in rilievo il carattere festivo della celebrazione eucaristica. Comincia a svolgersi l'assemblea della famiglia di Dio sulla terra in comunione con tutta la Chiesa, quella che già gode della visione beatifica in cielo, quella che si purifica nel purgatorio, quella che è ancora pellegrina sulla terra, sotto la guida di Cristo nostro Signore, Verbo incarnato e primogenito tra molti fratelli. Romani 8:29. Questo clima di grande gioia si respira soprattutto la domenica e i giorni di precetto. L'antifona che il popolo recita durante la processione d'ingresso, rispondendo al salmo intonato dal coro, pone in rilievo il significato proprio della messa del giorno, oppure la particolare sfumatura della solennità o del tempo liturgico in cui il santo sacrificio viene celebrato. Di conseguenza, il canto d'ingresso può essere paragonato alla facciata di un edificio. Con poche parole si manifesta, in un certo senso, la chiave di lettura della celebrazione. Tali parole ci invitano a considerare il mistero salvifico operato, o a riempirci di gioia per i privilegi concessi alla Madonna, o ad ammirare l'esempio dei santi, o a implorare la loro intercessione, e così via. La riverenza davanti all'altare e il bacio che il celebrante vi depone sono altrettanto carichi di significato. Il sacerdote si trova lì non in nome proprio, ma in nomine ecclesiae, in nome della Chiesa. Egli rappresenta quindi tutti i fedeli, per tutti loro dà il bacio liturgico a Cristo di cui l'altare è simbolo. E noi, ciascuno di noi, che saluto offriamo a Cristo? Possiamo salutarlo con contrizione come quella donna che afferrò i suoi piedi sacri e li bagnò con le sue lacrime. Luca 7, 37-38. Oppure con gratitudine, come Maria di Betania dopo la risurrezione di suo fratello Lazzaro, Giovanni 12:3, o in altri modi analoghi. San José María un giorno disse: quando giungo ai piedi dell'altare per iniziare la messa e recito l'invocazione Introibo ad altare Dei, mi rispondono: Ad Deum qui letificat juventutem meam. Salmo 42, 4. In quel momento mi sento giovane, pieno della vostra gioventù e dell'eterna gioventù di Dio. Affluisce al mio cuore tutto il sangue vigoroso e ardente dei 20 anni. Con quelle parole sulla bocca si accresce il mio desiderio di salire sull'altare. Vi salgo con entusiasmo. Più che mettervi le mani sopra, lo abbraccio con affetto e lo bacio come un innamorato, perché davvero lo sono. Se non lo fossi, sarei un povero disgraziato. In ogni caso, il bacio all'altare manifesterà sempre un saluto che implica adorazione, donazione, amore, come quello di Maria di Magdala dopo la risurrezione di Cristo, Giovanni 20, 17. Manifesterà altresì una forte comprensione del dogma della comunione dei santi, che in virtù del quale la Chiesa trionfante, quella purgante e quella militante si mostrano intimamente uniti nell'unica Chiesa di Gesù Cristo. Il bacio all'altare ci incoraggia a sentire l'unità con tutti i cattolici e a pregare per l'umanità intera, ponendola idealmente sull'altare. Con l'atto penitenziale che recitiamo tutti insieme, manifestiamo più consapevolmente quei sentimenti di compunzione, di dolore d'amore ai quali la Chiesa ci invita. Il Confiteor ci mette di fronte alla nostra indegnità, non di fronte al ricordo astratto della colpa, ma di fronte alla presenza concreta dei nostri peccati e delle nostre mancanze. Perciò ripetiamo: Kyrie eleison, Christe eleison. Signore, abbi pietà di noi. Cristo, abbi pietà di noi. È un eccellente momento per ravvivare il dolore dei nostri peccati, per rendere nuovamente attuale il proposito di lotta con il quale forse abbiamo terminato la giornata precedente nel nostro esame di coscienza serale. È altresì un eccellente momento per riempirci di gioia perché Dio è nostro Padre e sempre ci perdona. Se il perdono di cui abbiamo bisogno dipendesse dai nostri meriti, in questo momento nascerebbe nell'anima un'amara tristezza. E invece, per bontà divina, il perdono ci viene dalla misericordia di Dio. Tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, non solo per la distanza che separa la sua perfezione infinita dalla nostra condizione di creature, ma anche per la facilità con la quale lo offendiamo. Il giusto cade 7 volte. Proverbi 24:16. Inoltre, ed è l'aspetto più serio, a volte montiamo in superbia, ci consideriamo autosufficienti. Meditiamo la conversazione tra Disma il buon ladrone e Cristo crocifisso. Memento mei, Luca 23:42. Ricordati di me, esclama il peccatore pentito. Con questo grido ottiene per sé il cielo. La contrizione sincera ci mette nelle migliori condizioni per entrare nel mistero della croce, via della nostra salvezza.